Cicciottella è una bambina fatta a forma di bignè, i capelli sono di zucchero filato, ha le braccia di candito, beve solo malvasia, ma consuma per mangiare tutta quanta l'energia. Cicciottella, stai attenta perché un giorno finirà, ma la furba bambina il rimedio ha trovato di già. Ci ho pensato su, non consumo più per la coda l'arcobaleno, diventa un treno che la terra lascerà, su nel cielo volerà, ti farà girare il mondo senza l'elettricità. Cicciottella ha esagerato, si è mangiata l'energia, non ne ha più per cucinare la pasta asciutta. Per scaldarsi il caffè latte deve scendere nella via e rubare raggi al sole con un po' di fantasia. Hai bevuto anche il petrolio, dice lo sceico Ali, mentre avevi un bell'olio di oliva per fare supplì. Ci ho pensato su, non consumo più. Tutta la città. Ci ho pensato su, non consumo più A-E-I-O-U. Se non hai carbone per riscaldarti, non arrabbiarti, metti un poco di allegria, la tua mano nella mia. Basta il nostro batticuore come fonte di calore e vedrai che il nostro amore tutto il freddo porta via. Cicciottella è una bambina fatta a forma di bignè, che non può diventare un grissino più magro di te. Yeah!